Aiuto! Aiuto, aiutatemi! Aiutatemi, aiutateci! Anche aiutatevi, anche a voi. Insomma, qualcuno faccia qualcosa! Il riscaldamento globale sta salendo! Fa caldo, fa caldo! Andò, fa caldo! Siamo come in una lavatrice! Tutto va veloce, velocissimo! Sembra di stare in una centrifuga! Ci stiamo restringendo! Ecco, io mi sono ristretta qui, anche qui, vabbè, ok, no, qui e qui no, ero già ristrettissima da prima, però so che c'è anche chi si è ristretto proprio lì, se non si è ristretto guardando così a occhio e croce, significa che è un problemino di prostata. Vabbè, e comunque tutti, nessuno escluso, ci stiamo ristrettissimi proprio qui dentro la capoccia. Aiuto. Inquinamento dappertutto, abbiamo naso inquinato dai gas di scarico, la bocca dal cibo transgenico e le orecchie dalle cazzate. No, dico, attenzione alle reti Mediaset, pullulano di cazzate. Sì, se ti entrano in un orecchio non te le levi più manco col cotton fioc. No, aspetta, scusate, no, ma mi calmo, aspetta. No, è che sono le polveri inquinanti, no? Com'è che le chiamano? Ah, sì, le polveri sottili. Sono dappertutto, entrano nella pelle, negli occhi, nel naso, e poi ti scendono dentro nei polmoni e poi muori. Basta. No, basta, no, scusate, perché è tutto un limite, lo dico, guarda qua, cioè, plastica. Oh, plastica dappertutto. Allora, per esempio, sta busta, no? Sta busta. Chi l'ha buttata? Tu? L'hai buttata tu? L'ha buttata lei? L'ha buttata lui? Io? No, ma veramente? Ma che l'ho buttata io? Oddio, non siamo manco più padroni delle nostre azioni. No, tranquilli, adesso io prendo la busta e la butto là è già pieno di rifiuti ingombranti, non c'è spazio. No, allora la prendo e no, lì ci sono i rifiuti pericolosi e questa, oddio, vabbè che è di plastica, però è sempre solo una busta. Oddio, guarda, c'è sopra pubblicità della Parmalat, che voglio dire, quella pericolosella un po' lo è, però dai, non esageriamo. Ok, però dove la butto? Lo so, sai che faccio? Faccio la differenziata. Allora, come funziona? Funziona, la differenziata funziona così, che se questa è una busta di plastica, la metto dove ci sono le altre buste di plastica, ecco qui. No, lo so che non ci sono altre buste. Sì, ma io domani ne butto un'altra e poi il giorno dopo un'altra ancora e poi ancora. E quella cos'è? Ma cos'è, una balena? No, è molto più grande di una balena, ma quello è un iceberg. No. Ma guarda, ma è molto più grande, ma guarda, è un'isola di plastica? Sì, lo so, deve essere quell'isola che si sta formando con tutte le schifezze che buttiamo nel mare e viene, oddio, si sta avvicinando, viene dall'Oceano Pacifico, oddio, ma è enorme, è due volte l'America! Oh, oh, guarda, c'è un bambino là. Ehi, ciao bambino, no. Bambino, no, non la toccare, non la toccare, può essere pericoloso. No, lo so, dentro c'è il tuo pallone, la Barbie tarocca di tua cugina, la bambola gonfiabile di tuo papà. Sì, ma no, quelle non sono le sorpresine della Kinder, dai, non è l'isola di plastica di Pasqua quella, dai. Dai, non toccarla. No, no, ti prego, non... Ecco, l'hai toccata. Ecco, l'hai toccata e ti sono cresciute le tette. Come, non ci credi? Tocca. Toccatele. Tocca. Ma non così. Ma dai, sei troppo piccolo. Ma dai, ma lo so che l'hai visto fare su YouPorn, lo so. Ma lo so che sembrano quelle della Belen, ma quelle non sono di plastica, sono vere e sono le tue. Vabbè, non piangere adesso però, eh. Oh, dai, non sopporto i bambini che piangono, vieni qua. Vieni qui. Oh, sì, gentile saluta al pubblico. Sì, ma non tirarti sulla maglietta, fa vedere le tette. Ecco, bravo, bravo. No, tranquilli, tranquilli, lo so, non vedete nulla. No, lo so che sembra che qui a fianco a me non ci sia nessun bambino, lo so, non si vede, è vero. Ma questo è un bambino di nuova generazione, è di quelli che tu gli dai un computer e lui, puff, sparisce. Dove sei? Vieni qua, dai, vieni che ti spiego. Allora, lo spiego a te, lo spiego anche a tutti gli altri, eh? Allora, bambino, quell'isola di plastica ha dentro un sacco di cose, ma sono pericolosissime. C'è dentro il carbonio, il silicio, gli additivi, i componenti chimici, il BPA, i policloro, bimbellini, i polibromofinetti, ecco, lo vedi? Creano mutazioni genetiche. Anche nei pesci, eh? Ah, guarda, io ho visto cernie fare lo sguardo da triglia a triglie che avevano un'ombrina nello sguardo. Per non parlare delle sardine al mercurio. Mamma mia, le ho viste provare la febbre agli scampi senza scampo. Il mare ormai è inquinatissimo. Guarda, guarda cosa ho qua. Guarda, aspetta. Allora... Questa mattina sono andata al mercato e ho comprato una seppiolina e un trancio di salmone, sono in questa busta. In tutto faranno 55 kg. Per forza, si nutrono solo di metalli pesanti. Allora, io ho pensato, no? Con la seppia, che faccio, mica me la mangio, no? Ma che sono scema, no! Io la taglio ad anellini e ci faccio il portachiavi, così è una cosetta da cinesi. Poi, col trancio di salmone, invece, beh, perché visto, no? Se vedi, c'ha proprio la pelle che è cromata. Vabbè, dico, no, non con uno, no? Ma con un bel po' di tranci, beh, ci si potrebbero fare le carrozzerie dei SUV. Io già me lo vedo, sto SUV che... come un salmone risale la corrente del traffico del centro storico contromano saltando da un marciapiede all'altro guidato da uno scorfano che si crede uno squalo in un film di Indiana Jones, eh? Forse sto esagerando, mi sa che sì, sto esagerando, però detto tra noi, no? Cioè, se vogliamo essere veramente realistici, non surreali, diciamocelo. Oggi pesce fresco non c'è, c'è più. I gamberetti solo surgelati si trovano. Guarda, guarda, c'ho qui una confezione. Guarda, l'ho comprata al supermercato, chiaramente. Leggo, leggo. Guarda. Cioè, questi vengono dai paesi tropicali, hanno fatto un viaggio lunghissimo. Guarda, cioè dentro, guarda. Ma quanti sono? Ma gli hanno tolto la testa e il guscio, porelli. Cioè, io per pulirne 10 ci metterò tipo 3 ore, no? Per pulire tutti questi, ma ci sono voluti giorni, settimane. E poi ci sono volute manine piccole, piccole, veloci, veloci, manine di bambini. Oddio, bambini come te! Bambino, scappa, salvati! Corri, corri! Ecco, bravo, non farti trovare, sti stronzi! 3 euro al mese per 18 ore di lavoro al giorno! Sì, questo danno ai ragazzini per pulire i gamberetti. Gamberetti che ci mangiamo noi, e questo è vero! Tristezza! Cioè, ci siamo incatenati a una catena alimentare avvelenata. La mucca è pazza, la mozzarella è blu, la gallina c'ha tre petti e mezzo becco. Ma chi è stato? Tu? Sei stato tu? Lui? Lui, lei? No, io, no, allora, questa io no, Io non sono mai andata al McDonald's, mai ho comprato la Coca-Cola, mai bevuto latte della Parmalat, mai, pensate che io mangio solamente la passata di pomodoro fatta in casa da me, con i pomodorini che mi porta mia sorella direttamente da Napoli. Oddio, Napoli, la terra dei fuochi. Ok, chi sta avvelenando la catena alimentare? Mia sorella. Vabbè, però pure io. E chi ci salverà? Tu? Lui? Sì, figurati se ci salva mia sorella. Ho capito, incomincio da me. No, perché qualcuno dovrà farlo, no? E da cosa incomincio? Si comincia sempre da un cambiamento. Allora, se io prima ero una comica normale, diciamo, ora diventerò, attenzione, una comica biologica, una biocomica! All the world is waiting for you, and the power you possess. In your satin tights, fighting for your rights, and your red, white, and blue. Wonder Woman! Wonder Woman! Now the world is ready for you. Eccoci qua. Oh, sia chiaro che per dire tutto quello che dirò da questo momento in poi non sono stati fatti esperimenti su animali, nessun albero della foresta è stato abbattuto e in Africa nessun bambino è stato costretto a lavorare. Ah, un gran bel risultato, eh? Allora, io sono ormai diventata una comica biologica e anche ecosostenibile. Dunque, nel senso che per sostenermi vi basta che mi mandiate un SMS del valore di 200 euro al 339-3637-109, che poi per ricaricarmi ci penso da me, mi basta una vacanza in Brasile e vado a energia elettrica. No, che vado a energia elettrica, ci siete cascati? No, vado a energia solare. Guardate che l'energia naturale è importantissima, è come l'alimentazione deve essere sana e naturale. Allora, io ci ho pensato, seguitemi. Se noi vogliamo essere proprio sani in modo completo, non basta riconoscere qual è il cibo che non ci fa del male, no, dobbiamo riconoscere anche tutto ciò che facciamo dentro la nostra vita che ci è nocivo, ci fa male. Che cosa c'è nella nostra vita di tutti i giorni che è nocivo e ci fa male? Tutto. Cioè tutto quello che anche solo a nominarlo ci fa male, tipo, che ne so, potrei dire le bollette, le tasse, le domeniche ai centri commerciali, ai figli ai disoccupati, ai figli dei disoccupati che sono anche loro disoccupati, gli stipendi ai deputati, gli avvocati, gli appalti, le palazzine, i palazzinari, Equitalia. Oddio, scusate. No, scusate, ve l'avevo detto che tutta roba nociva. Scusate, però vedete, tutte queste cose, no, sono nocive. Tutte queste che ho appena nominato si trovano normalmente nella nostra vita. E perché ci stanno? Perché è normale che ci siano. E quindi io posso dire che ciò che è naturale ci fa male. Invece ciò che è... No, vedete che mi confondo pure io. Io, allora, naturale, normale, tutto ciò che è normale, l'ho capita adesso, tutto ciò che è normale ci fa del male, invece ciò che è naturale è anche biologico e ci fa bene. Sto incominciando a capire e provo a spiegare meglio pure a voi. Per esempio, litigare con la suocera, cos'è? normale, infatti fa malissimo. Invece seccarla con un bel colpo di Kalashnikov cos'è? Omicidio? Sì, ma è naturale. Io con un colpo solo ho migliorato la mia vita. Stop ai pranzi domenicali a base di pagliata con contorno di coda alla vaccinara sul letto di animelle in ubido. Ora finalmente posso fare la spesa al supermercato bio, che costa un po', ma ormai senza suocera ho anche più soldi in tasca. E certo, la bolletta del telefono è dimezzata, la benzina per accompagnarla dal medico è risparmiata e le mie sedute di psicoterapia annullate. Vabbè, questo sì che è naturale, è bio. Che poi qualcuno potrebbe dire, ma proprio spararle col Kalashnikov, esagerata, mica un'attivista politica. Sì, invece, la vecchia ha sempre fatto una satira politica scorretta su di me in nome di un Dio nel quale crede solo lei, suo figlio. Che poi, scusate, figli, suocere, nuore, nonni, cos'è la cosa che per tutti è la più normale? La cosa che è proprio normale avere, se non ce l'hai è normale che la desideri. Che cos'è? È la famiglia. Proprio quella famiglia che è detta da tutti famiglia biologica, sangue del tuo sangue. Io sono vegetariana, allora mi domando, ma è veramente biologica la famiglia biologica? Vediamolo insieme. Allora, immaginiamo una famiglia normale, genitori, figli, cugini, cognati, cognate, suoceri, suocere, immaginiamola questa bella famigliola alla fine di una di quelle normali riunioni familiari, Pasqua, Natale, Cresima, come stanno? Come stanno? Male? No, stanno malissimo. C'è chi litiga, chi vomita in bagno, chi ha la diarrea in ascensore, chi un attacco di psoriasi sul divano, è inquinante. Ma allora fate come me. Io per esempio, che sono veramente una donna biologica, se qualcosa in famiglia va male, se tra me e lui il rapporto incomincia un po' a puzzare, io mi libero immediatamente dell'elemento più inquinante, lui. Sia chiaro però, che personalmente non ho mai buttato fuori casa un uomo. No, mica voglio fare emergenza rifiuti pericolosi. Io col mio ultimo lui invece ho fatto una cosa molto biologica. Era lì tutto inquinato dalla depressione, tutto il giorno sul divano, geneticamente modificato dalla televisione. Allora io per stimolarlo l'ho spromato a muoversi, l'ho aiutato ad uscire, sì. Le valigie per tornare da sua madre gliele ho preparate io. E l'ho pure accompagnato davanti a casa di sua madre, Sì, quella donna, com'era felice, gli è corso incontro col ferro già caldo in mano e gli ha stirato la camicia così, in piedi, in mezzo alla strada. Io li ho guardati e ho pensato, porca miseria, Cioè, io ho appena ricostituito quella che per tutti è una famiglia biologica. Ma che in realtà è un'arma chimica pericolosissima, pericolosa per la prossima donna che se lo prenderà sto uomo, no? Che se poi è pure una donna normale, non biologica come me, è sicuramente portata ad intossicarsi la vita con un uomo tossico, nocivo, e ci vivrà pure insieme perché vorrà sentirsi sicura, protetta nella sua casa. Ma non era meglio un antifurto? No, Cioè, almeno quello in casa non lo vedi, ma sai che c'è, ti protegge. Io per esempio, no? Un uomo in casa mica ce l'ho. No, ce ne ho due, i miei figli. L'antifurto manco l'ho messo. Chi c'entra a rubare a casa da me? Ma lo sanno tutti che il mio ex manco il mantenimento dei figli mi passa, dai. Però io non mi scoraggio, no. Io ogni capodanno faccio una scelta molto biologica. Sì, rinuncio al suicidio. Oh, e chiaramente non ho mai parlato male del padre ai miei figli. No, a loro dico che non è che proprio il loro padre deve essere come Dio, però quasi. Infatti sapete che quando erano piccoli mi dicevano, mamma, ma lo sai che papà è proprio come Babbo Natale? Sì, si fa vedere solo una volta all'anno, si ferma un attimo e porta dei regali di merda. Tristezza. Io invece a Natale mi ho sempre fatti felici. Un anno gli ho fatto una sorpresa veramente biologica. Io sotto l'albero gli ho fatto trovare le radici. Insomma, io e i miei figli siamo una vera famiglia biologica. Non come la intendono tutti, no, ma come la intendo io. Amicizie che nascono spontanee, amori che si alimentano da sé e salute a chilometri zero. Sì, ci curiamo in casa tra noi con tanto affetto e tanta... Basta, tanto affetto, senza medicine. Ma per forza, se stiamo ad aspettare la... Certo, già che ti curi a chilometri zero in casa, significa che una casa ce l'hai, no? No, perché proprio anche la casa oggi è un altro di quei problemucci normali, tra virgolette, che abbiamo. Allora, scusate, mi viene in mente, posso fare una domanda? Così. Scusate, ma un senza tetto può usufruire degli incentivi per i pannelli solari? Per costruirsene uno, intendo, di tetto, no? Almeno quello c'è risposta, eh? No, dico, con tutte le case sfitte, gli abusi edilizi, gli attici ai vescovi, certo ci facciamo trattare proprio da polli, eh? Allevati a terra e all'aria aperta, ma dai! Io ho detto ai miei figli, tranquilli, la casa che mi ha lasciato nonna io la lascerò a voi, chiaramente se me la lascerà Equitalia. Speriamo bene, perché guardate che è importantissimo lasciare una casa ai propri figli oggi. Sì, nel caso gli dei essere domiciliari domani. Che tristezza, che tristezza. Un tempo quando ti nasceva un bambino gli dicevi «Oh, buona vita, piccolino!» Ora gli dici «Oddio, scusa, mi dispiace!» E sì, perché il problema oggi è assicurargli il futuro. Ma pensate che in Africa i papà portano sulle loro spalle il proprio bambino proprio per fargli vedere un orizzonte lontano, il più lontano possibile, come per farlo sperare in un futuro liscio, lungo, infinito. Noi invece i nostri figli li portiamo nei passeggini ad altezza tubo di scappamento delle auto. Non lo so, forse perché vogliamo farli sperare in un futuro della Fiat. Ma dai, ma quale futuro? Il futuro lo sappiamo tutti, è dato solamente dai soldi, ormai l'abbiamo imparato, eh. Ma chi ce li ha? Pensate, venerdì scorso sono andata alla posta per pagare le bollette, ho domandato, scusate, chi è l'ultimo? Hanno alzato tutti la mano. Così è il problema, che tutti hanno paura di pagare. E invece si dice ancora che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ed è vero, eh? Infatti noi siamo proprio lavoratori, oggi le nuove figure professionali sono cambiate, sì, tipo il ricercatore scientifico di un tempo, oggi per fare le sue ricerche va nei cassonetti. Ma se è bravo e ricerca bene, qualcosa da mangiare se lo guadagna, eh? Oppure l'addetta alle pubbliche relazioni, c'ha questa posizione qua, questa... Sulla salaria, sì, se è brava le fanno fare pure gli straordinari e quelli sono straordinari pagati, ecco. Oppure l'esperto sulla trasparenza, oggi lavora al centro, sì, lava i vetri e i semafori delle macchine. Scusate, scusate, ho una notizia molto biologica da darvi. Siamo nella merda. Sì, però tranquilli, perché quando uno si trova nella merda che cosa fa? Si pulisce, no? E poi tira lo sciacquone. Ecco, anche questa per esempio è una delle cose normali che facciamo pensando di farla per benino. Invece, ascoltate un po' qua, Allora, la cacca appena esce ha una carica batterica normale. Diciamo che tu fai i tuoi bei 700 grammi di cacca. Poi la metti dentro l'acqua. Sono 11 litri d'acqua potabile ogni volta che tiri lo sciacquone. 700 grammi di cacca diluiti in 11 litri d'acqua diventano 11 kg e 700 grammi di cacca. La tua! Una gran bella montagna! E dove va questa montagna? Va nelle fogne, e lì i batteri, gli organismi viventi, mica la contrastano, no? Ci sguazzano, si accoppiano, prolificano, non si guardano manco in faccia, do coio coio, una fogna a luci rosse. E questa fogna si dirige allegramente, tipo gruppo vacanze Piemonte, verso il mare. Un viaggio liscio, senza intoppi né ostacoli, soprattutto qui in Italia, che c'è solo qualche rarissimo caso di depuratori. Sì, ma sono messi lì per sbaglio, così solo da vedere, perché pochissimi funzionano veramente. E io vado. E così la tua montagna di cacca si sparge dentro il mare e diventa un mare di cacca. La tua! E lì i pesci, le alghe, insomma tutte le creaturine marine ringraziano per il pranzo ottimo e abbondante. E in cambio ti ridanno l'acqua che stava intorno alla cacca, depurata, senza più batteri, ma con tanto sale. E qui i casi sono due. O credi nell'esistenza degli impianti di desalinificazione sparsi nel territorio? O fai un grosso sforzo di fede e credi in un miracolo? Ma per i miracoli ci vuole tanta pazienza, devi aspettare che l'acqua evapori, si trasformi in pioggia, grandine, neve, che si infiltri nella falda acquifera per ritornare finalmente potabile. Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Cacca. Per poi andare a finire nuovamente dentro il tuo sciacquone. Sono 11 litri d'acqua. Allora, la soluzione invece sarebbe un gran bel funerale. Oddio, non mio, ma nemmeno il vostro. No, proprio il funerale della cacca. Noi dovremmo metterla sottoterra. E lì sottoterra i lombrichi, i funghi, i microorganismi, i muschi, i licheni, gli scarafaggini, i coprofaghi, ma anche i puffi, gli gnomi, le fatine dei boschi, trasformerebbero la nostra cacca in humus, cioè quella terra che noi andiamo a comprare al consorzio agrario per i fiorellini che ci mettiamo sul balcone, no? Che poi, metti che magari ti sei mangiato melanzane, zucchine biologiche e i semini sono finiti dentro la cacca, rischi pure che ti nasca un orto sul balcone che purifica l'aria, rinfresca, te lo mangi e poi lo ricaghi. Ma non nel vasino del vicino, vi raccomando, perché si sa, se caghi nel vasino del vicino il suo giardino sarà sempre più verde. E comunque, come ogni ciclo vitale, per oggi anche queste bioriflessioni sono finite qui, direi. Sono state tutte riflessioni naturali, biologiche al 100%, fresche di giornata, colte e recitate. Magari qualcuna mi è venuta male, scusate, forse qualche cazzata mi è scappata, comunque tranquilli, è tutta roba naturale, non fa male, almeno spero, almeno speriamo bene, speriamo in bio.